giovedì 7 marzo, quindi stasera, presso il pub Pangoro in via Pisano 82 Rosso a Firenze, dalle 19.30 fino a tarda notte, ci sarà un aperitivo vegano, di cui parte del ricavato sarà devoluto all'autofinanziamento della giornata sui metodi sostitutivi alla sperimentazione animale del 15 marzo, prossimo 21 a Careggi. Inutile dire che abbiamo bisogno del vostro aiuto e che quindi vi aspettiamo numerosi.